Euroreportage. Quale Europa? Di Sergio Nava. Buongiorno dalla sede del Consiglio europeo a Bruxelles. Euroreportage oggi interamente dedicato all'ultimo vertice comunitario svoltosi nella capitale belga, il primo sotto presidenza italiana. Tra cronaca e approfondimento, oggi vi racconteremo il contesto in cui i 28 leader comunitari sono tornati a riunirsi per la terza volta in un mese dopo il meeting sull'occupazione e il vertice Europa-Asia, svoltisi entrambi a Milano. Sullo sfondo delle tensioni relative alla presentazione delle leggi di stabilità, in particolare quella italiana, e con un pacchetto clima-energia da definire prima dell'approvazione definitiva, senza dimenticare le insidiose crisi internazionali del momento, i 28 hanno tenuto il consueto vertice autunnale. Tra poco andremo ad approfondirne alcuni aspetti. Per cominciare però vi proponiamo subito l'intervista che abbiamo realizzato con il commissario europeo all'industria Ferdinando Nelli Feroci, che nei prossimi giorni lascerà l'incarico in contemporanea con la scadenza della commissione Barroso. A Nelli Feroci, esperto di lungo corso di questioni comunitarie, abbiamo chiesto un personale bilancio dei 4 mesi in commissione, letti attraverso un suo sguardo sull'Europa che si lascia alle spalle. Un continente che vive sull'orlo di una crisi di nervi, gli abbiamo chiesto provocatoriamente. Forse si tende a dimenticare un po' troppo presto il rischio che ha corso l'Europa, il rischio soprattutto che ha corso l'Eurozona e la nostra moneta comune. Noi abbiamo dovuto fronteggiare una crisi di dimensioni straordinarie che ha messo a nudo tutte le carenze e tutte le deficienze della governance della nostra moneta unica. Sono state prese misure inimmaginabili prima della crisi che in qualche modo hanno consentito di salvare l'euro. Questo è un merito che va in qualche modo riconosciuto alle istituzioni europee, anche alla Commissione e agli Stati membri che hanno partecipato a questo esercizio collettivo di damage containment. Sono stati commessi degli errori, sicuramente sono stati commessi degli errori, forse si è esagerato in particolare sul tema del consolidamento fiscale, però complessivamente credo che quello che si è fatto in questi 5 anni è stata un'operazione di salvataggio di una moneta comune che era stata concepita forse un po' alla leggera, senza rendersi conto che ci potevano essere rischi sistemici che rischiavano di far collassare il sistema dell'Eurozona. Qualcuno ha detto si è fatto il tetto prima di mettere le fondamenta. Si può leggere in questo modo, sicuramente leggendo a posteriori quello che è successo nel corso di questi anni si è scoperto che non si erano preso in conto delle possibilità e dei rischi molto concreti con i quali abbiamo dovuto confrontarci giorno per giorno a partire dal 2009 e quindi sono state prese in situazioni di emergenza delle misure assolutamente innovative, talmente innovative che secondo me valgono molto di più di una riforma del trattato. Ora c'è bisogno, se vogliamo guardare un pochino al futuro, di reintrodurre un migliore equilibrio tra il tema del consolidamento fiscale, che è stato indubbiamente la priorità delle priorità e non poteva essere altrimenti, con il tema della crescita, con il tema degli investimenti. Due temi di stretta pertinenza del suo portafoglio. Il primo è il debiti della pubblica amministrazione. Il suo predecessore Tajani aveva aperto anche una procedura di infrazione. A che punto siamo? La procedura di infrazione era stata aperta nel maggio scorso e c'erano effettivamente dei fondati motivi perché la Commissione aprisse questa procedura di infrazione. Da quando io mi sono insediato dai primissimi giorni di luglio ho avviato immediatamente un'interlocuzione con il governo, ci siamo incontrati qui a fine luglio con il ministro Gozi. Ho potuto riscontrare una notevole disponibilità da parte del governo italiano a mettere in cantiere misure che dovrebbero consentirci di recuperare il ritardo accumulato. Abbiamo ricevuto alla nostra lettera di rilievi una risposta molto esauriente il 19 agosto, cioè perfettamente entro i termini previsti. Le misure vanno tutte nella direzione giusta. Ora aspettiamo naturalmente di vedere gli effetti e i risultati di queste misure. Sui debiti pregressi, però avete dei dati aggiornati su quanto l'Italia è riuscita a ripagare i debiti che aveva già accumulato? Sui debiti pregressi noi abbiamo notizia di uno stanziamento complessivo in due tranche, una sul 2014 e una sul 2013, di ben 56 miliardi di euro, quindi io credo che lì non dovrebbero esserci problemi. Più generalmente, quale futuro vede lei per l'industria europea? Si parla molto di rafforzare il manifatturiero. Stanno arrivando anche le nuove tecnologie, le start-up, si sta creando in diverse città d'Europa anche un ecosistema di start-up. Allora,

nella direzione di una maggiore efficienza energetica e di un maggior peso per le rinnovabili. E aggiungo, quando viaggio in Cina, incontro molte aziende italiane che offrono prodotti molto forti, soprattutto nel settore dell'efficienza energetica. Siete la dimostrazione che quando sei creativo puoi creare nuove aziende nel settore dell'energia e delle rinnovabili. You can create new industries by addressing efficiency and renewables. E poi, nella notte tra giovedì e venerdì, l'accordo alla fine è stato chiuso. L'intesa ha confermato le cifre che aveva proposto a gennaio la Commissione europea, riduzione obbligatoria delle emissioni del 40% rispetto al 1990 in tutta l'Unione, da conseguire attraverso sotto obiettivi nazionali vincolanti e tramite la borsa delle emissioni ETS. Confermato anche l'obiettivo dell'aumento al 27% della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo totale, meno ambizione invece sull'efficienza energetica. L'obiettivo accettato ha ridotto al 27% l'incremento previsto del risparmio, 3 punti sotto la proposta della Commissione europea, e non sarà soprattutto un obiettivo vincolante ma solo indicativo. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.